Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Pronti per dare il via qui dal Groovemaster Studio alla puntata numero 201 del Soundcheck Prova del Suono di Radio 24, quindi buon pomeriggio e buona domenica a tutti voi da Gegè Telesforo e buon pomeriggio e buona domenica a un redivivo Francesco Tromba che dopo diverse settimane di assenza proprio ieri ha fatto nuovamente la sua apparizione qui al Soundcheck. Sono contento di vederti in forma, come va? Benissimo, buona domenica a tutti, non vedevo l'ora di tornare, come ho detto già ieri, finalmente. Finalmente puoi razzolare di nuovo in mezzo alla musica. Sì, sono contentissimo. Bene, anche noi. Allora Francesco, oggi torniamo un po' alle vecchie abitudini, siamo pronti per dare il via ai famosi squilli di tromba, mi mancavano gli annunci da parte di Francesco Tromba, quindi una selezione di concerti interessanti da seguire nel nostro paese e all'estero. Vogliamo subito dare il via alla tua rubrica? Sì, iniziamo subito. Bene, partiamo con gli squilli di tromba by Francesco Tromba. Che cosa andiamo a vedere in questi giorni? Allora, questa sera a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, c'è Anastasia. Se ci sono ancora dei biglietti disponibili, si potrebbe andare a vederla. Sì, e tu vai? No, mi sa che non faccio in tempo. Non fai in tempo o non ti interessa? Sinceramente, non più di tanto. Non più di Però tanto. Comunque è una bella voce. Certamente, merita. Certamente. Domani, sempre Anastasia, sarà a Firenze al Lobby Hall e il 15 al Gran Teatro Geox di Padova. Quindi si fa una bella scorpacciata di tre giorni di cibo italiano. Perché questo è quello che fanno i musicisti. Quando è venuto Robert Glasper qui da me, ha mangiato l'ira di Dio. Sì, guarda, qualsiasi cosa. E tra l'altro c'è una cosa buffa che mi ha chiesto: posso cucinare io degli spaghetti? Ho detto va bene, che come li vuoi fare? Col pomodoro. E allora gli ho preparato i vari ingredienti e quindi durante l'intervista fatta nella zona cucina ha iniziato a cucinare. E abbiamo parlato anche degli spaghetti al pomodoro. Pensa che una fedele radioascoltatrice del Soundcheck mi ha mandato una mail e mi ha rimproverato, me ne ha detti di tutti i colori: ma come viene l'americano in Italia e cucinate la pasta col pomodoro? Potevate fare le cose con i funghi e tartufi e via dicendo. E io naturalmente ho risposto: signora, mi faccio il piacere, la prossima volta che avrò ospiti internazionali venga lei da noi e le mettiamo a disposizione la cucina. Spero che questo succeda presto. La rubrica di cucina del Soundcheck. Però è forte perché noi parliamo di musica e c'è qualcuno che se la prende pure per quando parliamo e scherziamo anche di cucina e di altro. Ma quindi, poi penso che Robert Glasper più di un piatto di pasta al pomodoro non sa cucinare. No, capito, però se ne è mangiato una cofana, cofana di pasta al pomodoro, vai, spaghetti, erano anche un po' scotti li ha fatti però. E l'aglio l'ho anche bruciato un po'. Pure, quindi erano immangiabili. Lo so, che vuoi da me? Andiamo avanti con i concerti, va? Sì, allora, Eugenio Finardi, giovedì 15 al Teatro Raffaello Sanzio di Urbino. Sono arrivati in Italia gli Incognito. Ah! Stanno per arrivare. Perché dal 13 al 17 saranno al Blue Note di Milano. Lo sai che questa è una band che continua a macinare concerti. Ormai hanno quasi una ventina di anni di attività e il leader, che è Jean-Paul Blumunique, meraviglioso chitarrista compositore, accreditato in tutto il mondo, continua a portare la band nei festival più importanti e ad avere sempre un grande successo. Per quanto poi le ultime produzioni discografiche si rifacciano esattamente a quello che ha fatto agli esordi, non è che ha cambiato più di tanto il suono o ha avuto un'evoluzione. Evidentemente però è un suono che ancora rimane fresco nella mente. E funziona, noi siamo affezionati agli Incognito, allora facciamo una cosa, suoniamo subito uno degli ultimi singoli prodotti da Jean-Paul Blumunique con la nuova formazione degli Incognito. Questa è una sua composizione scritta a quattro mani col bravissimo Matt Cooper, tastierista, già leader degli Outside, ma vi sto parlando di 20 anni fa, nel periodo Easy Jazz. Il brano si intitola Above the Night, Incognito, al Soundcheck di Radio 24. Above the night, above the night, the deeper than the dark, yeah, yeah. finito, stanno per arrivare in Italia. Un'unica apparizione al Blue Note di Milano, però un periodo di quanti concerti? 3 giorni, no? Dal 13 al 17. Ah, 13 al 17, e poi sicuramente faranno il doppio set, quindi sì, il primo set alle 9 e il secondo alle 10.30, 22.30. Sì. E comunque per vedere gli Incognito sicuramente si paga un po' più del solito. Di solito al Blue Note, per entrare al Blue Note ci vogliono 27 euro in prevendita. In questo caso un po' di più. Un po' di più. Poi se vuoi cenare con la tua fidanzata, la tua amante, la tua signora o gli amici, allora il budget sale. Certo. Quindi tu quanto puoi investire per vedere il concerto degli Incognito con la tua fidanzata? 100 euro. 100 euro. Però mi sa che forse non basta. Non bastano, perché hai speso tutto per fare i regali di Natale. Sì. Che è usanza. Ho svuotato le tasche. Lo so. Vediamo gli altri concerti in Italia con... gli squilli di tromba di Francesco Tromba. Sì, allora ci sarà il Focara Festival a Novoli, in provincia di Lecce, dove ci saranno Alfa Blondi, i Tinariwen, Muciacito, Bombo Infierno e anche i Motel Connection, quindi diciamo un festival più sull'etnico. Mm-hmm. Poi ci sarà anche John De Leo il 16 alla Salumeria della Musica a Milano. Sì. E anche i Bud Spencer Blues Explosion invece il venerdì, sempre il venerdì però a Bologna, al Locomotive Club. Mm. E arriviamo a Frank McComb che si esibirà questa sera al Moody Jazz Café di Foggia. Ma tu pensa a te, benissimo. Frank McComb a Foggia. Bene. Il 15 al Modo Restaurant di Salerno. Salerno. Il 16 al Break Live Dinner Show and Café di Ascoli Piceno. E questa è una bella cosa perché questi club hanno praticamente creato un circuito, perché certi artisti si fa fatica a pagarli per una data secca. E quindi mettendo in circuito gli artisti in 3-4 club si ammortizzano i costi vivi. E quindi Frank McComb sarà in Italia per questi concerti. Foggia questa sera, Salerno quando? Domani? Il 15. Il 15. Frank McComb arriva al soundcheck con Fools. It's all about you. Start crying 'cause your time is coming round soon. Sound check. Il suono della musica. Lo abbiamo conosciuto così con questo singolo intitolato Brown Sugar, il talento, l'energia di D'Angelo, considerato allora il monarca del New Soul, uno degli inventori di questo stile. Oggi D'Angelo è tornato discograficamente dopo 14 anni di assenza. Lo abbiamo già presentato questo album spettacolare intitolato Black Messiah. Lui non si considera il messia nero, però questo è un album politico, perché si augura il signor D'Angelo che possa un giorno apparire il messia nero e creare un'atmosfera diversa, soprattutto negli Stati Uniti, in questo momento così particolare e caldo per gli amici, per i fratelli e le sorelle. Sì, un particolare ancora più politico. Non so se sai che ha commissionato tutta la parte artistica del confezionamento, diciamo, dell'album a quello che è il ministro della cultura dei Black Panthers, il movimento politico. Eh sì, infatti hai visto la copertina è bellissima. Sì, e prima della pubblicazione del disco hanno realizzato una piccola clip, ma di 15-20 secondi, dove si vedono mani in alto, pugni, un po' sì da Black Panther, da movimenti neri degli anni 70. D'Angelo è tornato, questo era Brown Sugar, mi auguro di vederlo dal vivo in Italia. Io ho avuto la fortuna di vedere questa sua performance incredibile a Los Angeles un paio di anni fa, quindi speriamo di averlo in Italia. Penso che i grandi festival, Umbria Jazz, ecco per esempio Umbria Jazz la prossima estate, se non prende D'Angelo, oltre a Tony Bennett e Lady Gaga che sono stati già confermati, io non so, me la devo prendere proprio direttamente col direttore artistico Carlo Pagnotta o con Luciano Linzi. Vogliamo D'Angelo a Umbria Jazz, altrimenti partono le altrimenti intimidazioni, ci dimettiamo ci dimettiamo dalla musica. No, D'Angelo lo vogliamo in Italia, vogliamo vedere questa band incredibile con Pino Palladino al basso, non so se la batteria ci sarà, Questlove, il batterista dei Roots magari, perché è lui che ha realizzato il disco con D'Angelo, anche se poi D'Angelo porta in tournée quell'altro animale ritmico che è Chris Daddy Dave alla batteria, una band spettacolare. Allora, che concerti realizza D'Angelo in giro per l'Europa a questo punto? Sì, il tour europeo partirà l'11 di febbraio da Zurigo. Ecco, questa è una data, noi potremmo andare a Zurigo. Già, quantomeno è raggiungibile abbastanza facilmente. E poi ha diverse date in Germania. Ecco, vedi i tedeschi, sì, stanno avanti. Ne ha diverse anche a Berlino. Certamente. Poi suonerà anche a Parigi il 16 di febbraio, magari potremmo andare anche a Parigi, niente male. Seguiamo tutto il tour. Il 18 a Manchester invece suonerà. Il 20 a Londra, fa praticamente Tocca organizzarsi, dai, fare una passeggiata per andare a vedere D'Angelo. Però noi lo vogliamo dove? All'Umbria Jazz. A Umbria Jazz vogliamo D'Angelo la prossima estate. Intanto gustiamoci ancora una volta il singolo Sugar Daddy. Il singolo Sugar Daddy è stato pubblicato un giorno prima della release dell'album sul sito della Red Bull, sponsor ufficiale di D'Angelo nelle tournée, e garantivano soltanto 1000 download, che naturalmente sono terminati nel giro di 10 minuti, e poi il giorno dopo, senza nessun tipo di comunicazione, è stato pubblicato l'album Black Messiah, D'Angelo and the Vanguard, il brano è Sugar Daddy. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Dopo l'informazione siete di nuovo in contatto con il Groovemaster Studio per l'appuntamento domenicale del Soundcheck, prova del suono, e questa è un'altra band che noi vogliamo in Italia almeno la prossima estate, ovvero i meravigliosi neozelandesi Fat Freddy's Drop, e questo era Big Brainwash. Fat Freddy's Drop, una band che coniuga varie sonorità, dal dub al reggae naturalmente, anzi hanno iniziato la loro attività come band reggae, però suonano di tutto, una band compatta, 7 amici, 7 eccellenti musicisti che vogliamo in Italia. Dove li vogliamo vedere? Per esempio Fat Freddy's Drop, Francesco Tromba? All'Umbria Jazz. A Umbria Jazz, anche loro, tutti a Umbria Jazz. Beh, intanto in Italia ci sono molti festival importanti, soprattutto nel periodo estivo, quindi attenzione, ci sono band che noi vogliamo vedere assolutamente nel nostro paese. Ci sono altri concerti, per esempio, che so, di italiani? No, No. In questo momento no. Perché? Però potremmo andare... Guarda, te lo dico io perché. Perché sta per iniziare Sanremo. Sì. Fra un po' stanno scalpitando tutti, sono tutti, no? Fermi ad aspettare. Lo so, perché sento già i manager, o meglio, i promoter italiani, che stanno facendo man bassa di artisti, cercando di capire in anticipo quale può essere l'artista di punta per la stagione primavera-estate, per quanto riguarda la musica dal vivo. Anche se devo dire che non è proprio esaltante dal punto di vista musicale la selezione di Sanremo. Non lo so, però ci possono essere big, non lo so, però ci possono essere sempre delle sorprese. Sì, quello sì, però sono sempre loro, è sempre Sanremo, dai. Sempre Sanremo. Vabbè, che c'entra però, Beh, no, mi dispiace, proprio tu che sei il responsabile del repertorio italiano, anzi dovresti esaltare maggiormente la qualità della musica italiana presente nei grandi circuiti. Però la musica italiana più interessante non è, secondo me almeno, non è a Sanremo. Non viene rappresentata al festival. Nei big. Vabbè, allora X Factor. No. Ma scusa, ma allora tu la musica italiana dove la vai a cercare? Su internet. Quella buona. Sì. E infatti li proponi, sì. Fai bene. Ieri che abbiamo avuto, come si chiamava il tuo amico? Domenico Imperato. Domenico Imperato, no, stavo scherzando, certo che lo ricordo, non sono così rincoglionito, tromba, Domenico Imperato mi è piaciuto molto. Sì, è bravo, devo dire. È bravo, ma ce ne sono altri. Che facciamo? Andiamo con la musica o hai altre cose da annunciare? Ma... se vuoi ti annuncia posso qualcosa, dire dai. Qualcosa, ad esempio, magari andiamo a vedere i Fat Freddy's Drop a Barcellona. Oh, Fat, dove? A Barcellona il 19 Quando? Giugno al Sonar. Ma annunci una data di già estiva, penso già pensi all'estate. Già penso all'estate. Sei pazzo completamente. Sì. Però tu dici, perché uno così si può organizzare. Sì, così prendi i biglietti per tempo. Oppure il volo dimmi per una tempo. Data vicina, dai, dove possiamo andare per vedere Fat Freddy's Drop. Magari a San Valentino possiamo andare allo zoo 14 febbraio. Di Auckland in Nuova Zelanda. Sì. Allo zoo, sì. Andiamo io e te a fare gli innamorati per San Valentino. Ci andiamo a vedere in Nuova Zelanda Fat Freddy's Drop. Visto che ci piacciono così tanto. Senti, forse è meglio ascoltare il singolo nuovissimo appena pubblicato. Si intitola Slings and Arrows, Fat Freddy's Drop al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Splendida melodia scritta da un compositore di rango come Burt Bacharach, affidata alle corde vocali e al talento del polistrumentista giovanissimo Jacob Collier, Close to You nella versione di questo ragazzo inglese soltanto ventenne, del quale stiamo parlando già da un po' di tempo, sponsorizzato in questo momento dai grandi nomi della musica internazionale, fra questi anche Quincy Jones, che lo ha già presentato in una delle recenti edizioni del Montreux Jazz Festival, festival del quale Quincy Jones è naturalmente il direttore artistico. Stiamo aspettando quindi l'album di Jacob Collier e per ora possiamo seguire le sue vicende anche attraverso YouTube, perché Jacob Collier se la suona, se la canta e se la videoregistra anche, mio caro Francesco Tromba. Sì, fa tutto, è anche un discreto editor di video. È considerato un musicista cult proprio per questo motivo, è proprio un artista contemporaneo. Completo proprio. Completo. Ci e sono infatti... concerti di Jacob Collier? No. No, praticamente non ancora. Non però si sa io niente. So che a Londra fra pochissimo partirà un bellissimo festival organizzato da quel marpione di producer discografico radiofonico chiamato Giles Peterson. Perché Giles Peterson non ha invitato il suo concittadino Jacob Collier al suo festival? Evidentemente gliel'hanno fregato dalle mani. Gli americani, vedi, sì. Per una volta gli è sfuggito il talento di casa. E invece, come si chiama il festival, dove si svolge e chi ci sarà? Il festival si chiama World Wide Words e si svolgerà sabato 17 gennaio, cioè sabato prossimo, al Coco di Londra. Ma una sola giornata? Sì, tutto in una giornata. Tutto in una giornata, 24 ore di musica, più o meno. Sì, più o meno. Più o meno, quindi si può fare un andata e ritorno veloce, sì, con zainetto e sacco a pelo, si va lì. Sì, sì, proprio... Tu sei il tipo, tu che sei un intellettuale esperto di comunicazione ex di sinistra, sei il tipo che viaggia però, con lo zainetto e il sacco a pelo a Londra. Però visto che già poi in marzo ci sarà un altro festival organizzato sempre da Giles Peterson, dove ci sarà anche Dix Duke. Ah, quindi, forse quello per me è più interessante. Sì, sì, infatti mi sa che... Chi c'è nell'edizione di febbraio? Ci saranno Taylor McFerrin, Bilal... Non male. Clap Clap, Deliocentrix, Anushka, Marshall Allen, e Melanie De Blasio e anche Fatima. Fatima pure, sì. Pensa te. Ammazza, bella musica. Sì, tanta roba. Quello si chiama Giles Peterson, mica si chiama Francesco Tromba. Poi no, mica scusami. Inizia da adesso. Infatti. Senti, ma so anche che c'è un concerto di Roy Ayers in arrivo, che è uno dei veterani del soul jazz. Quando si esibirà e dove? Si esibirà a Londra al The Jazz Café. Sempre lì? Sì, sempre lì. In quel periodo? Sì, il 15, il 16 e il 17. Tre giorni con Roy Ayers, è da vedere. Sì. Sì, lui è il papà del soul jazz. E allora chiudiamo questa prima parte del soundcheck di Radio 24 per poi risentirci alle 19:15 con la sezione più jazz della nostra rubrica. Chiudiamo proprio con Roy Ayers, un suo vecchio successo. Io lo ballavo quando ero ragazzino. Si intitola Can't You See Me, ma questa è la versione rivisitata dai Kojak Giant Sounds e quindi una sorta di remix di Can't You See Me di Roy Ayers. Tu ci sarai più tardi o vai a casa? Ci sarai. Bene, allora andiamo a fare uno spuntino e poi qui al soundcheck dalle 19:15, a più tardi. Can't you see me? Check one, two, mic, check one, two, mic. Microphone, check, check one, two. Sound check, il suono della musica. Di DJ Telesforo. Ben ritrovati al soundcheck dal Groove Master Studio di Radio 24, Gegè Telesforo in compagnia di Francesco Tromba per la seconda parte di questa domenica dedicata alle sonorità più jazz. Ma mio caro Francesco Tromba, dopo settimane dedicate al suono originale, quello dei grandi eroi, grandi artisti che hanno fatto importante la storia del jazz, la puntata di oggi vorrei dedicarla ad alcuni contemporanei, quindi un suono più moderno. Sì, dai. Ci stai? Sì, dopo ecco. Un po' di old school. Un po' di... sai, io lo dico sempre, no? Non si può dimenticare il passato perché jazz vive il presente ed è proiettato nel futuro. Ti piace questo concept? Bello. E il jazz è proprio così, mio caro. Però ci sono anche dei concerti jazz che non possiamo perdere. Il nostro paese è diventato uno dei più importanti per il circuito di questa musica e quindi da noi arrivano grandi artisti americani, ma anche gli italiani fanno il loro lavoro molto bene in Italia e all'estero. Cosa possiamo andare a vedere? Venerdì 16 Daniele Di Bonaventura e Paolo Fresu suoneranno alla Casa del Blues a Forlì. Poi in realtà di appuntamenti jazz in Italia non ce ne sono tantissimi in questo periodo. Dovremmo andare all'estero. Beh, non perché sta per arrivare Sanremo, è perché è un momento particolare. Io vado in giro per club e vedo che purtroppo non c'è una grande affluenza. C'è questo problema. I musicisti quotati naturalmente vanno in giro e devono prendere i loro compensi. I club fanno fatica perché hanno le tasse, hanno i loro costi, le loro spese, il pubblico quindi deve pagare un biglietto alto e allora certo, praticamente vai a vedere i concerti e siamo sempre in 10, 15, 20, 25, 30. Non tutti se lo possono permettere, non sia tutti se lo possono permettere di andare a vedere poi tutto. Sì. Allora che cosa facciamo? Vogliamo annunciare i concerti all'estero o lo facciamo dopo il primo brano? No, perché c'è una piccola bomba che sta per partire. Sentiamo il primo brano. Prima bomba arriva direttamente dall'ultima pubblicazione realizzata da un grande maestro come John Scofield, musicista versatile che ha suonato di tutto, dal jazz classico al funk al rock, e continua a divertirsi, e per questo album intitolato Juice si diverte con dei vecchi amici, Medeski, Martin Hood. Con John Scofield recuperano una composizione del meraviglioso Eddie Harris. Il brano si intitola Sham Time, qui al Soundcheck di Radio 24. Il titolo di questa composizione di Eddie Harris, uno dei veterani del jazz contemporaneo, è lui il compositore della splendida Freedom Jazz Dance, praticamente un capitolo importante della storia del jazz di oggi, nella versione di John Scofield con Medeski, Martin Hood, dall'ultimo lavoro Juice, realizzato per la OK distribuzione Sony. Stiamo parlando di concerti, il nostro Francesco Tromba non ha trovato quasi nulla di interessante nel nostro paese, forse sì, c'è qua un po' di attività, sicuramente c'è in giro per i piccoli club, però come sempre c'è una città che da un punto di vista ritmico continua a pulsare notte dopo notte, e questa città è la splendida New York City. Sì, se fate in tempo questa sera ci sarà Arturo Ferrill con la sua Afro Latin Jazz Orchestra. Che band, ragazzi, dove suonano? Suonano al Birdland. E quindi se siete collegati con noi via streaming e vi trovate a New York, non perdetevi Arturo Ferrill, una band che quando inizia a suonare cascano i quadri dalle pareti. Ballano anche i piatti. Esatto, è proprio così. Lunedì 12 invece ci sarà Terence Blanchard al Blue che Note. Che bello. Sempre il 12 Nierfelder al Rockwood Music Hall Stage 2. Nierfelder sta andando molto bene. Sì. E poi è molto richiesto anche da colleghi che lo vogliono nelle produzioni discografiche. Pare sia un musicista preciso, serio, affidabile. Purtroppo quest'estate me lo sono perso, c'era stato un suo concerto qui a Roma ma ero già in vacanza. Allora approfitto di questa nota su Nierfelder perché Nierfelder è presente anche nell'album realizzato dal batterista bravissimo Eric Harland, album recente intitolato Vipassano, un album molto interessante, jazz contemporaneo, ma c'è anche qualche venatura funk e hip hop in chiave contemporanea. Eric Harland è presente qui al Soundcheck con i suoi ottimi compagni di avventura con questa sua versione, ha praticamente stravolto, Maiden Voyage di Herbie Hancock, e l'ascoltiamo subito. Soundcheck, il suono della musica. e avrete riconosciuto la voce, la vocalità di Sting in questa sua composizione intitolata Sister Moon, ma il pianoforte era quello del maestro Herbie Hancock, che ha coinvolto Sting e altri formidabili cantanti per realizzare qualche anno fa uno dei dischi più belli della sua carriera, ovvero Possibilities. Herbie Hancock presente al soundcheck. E mio caro Francesco, la cosa che mi ha fatto impazzire di questo brano è proprio il groove creato da Sting, che in questo brano suona anche il basso elettrico, e non è facile portare questo andamento cantando. Poi non so se poi in studio ha fatto tutto dal vivo, perché sai, quando sei in studio di registrazione puoi utilizzare le sovraincisioni e via così, ma la cosa bella è il groove creato dal batterista Steve Jordan. Ecco, un portento di batterista che è anche il producer di John Mayer, è uno dei musicisti più richiesti ormai da tanti anni, anche eccellente produttore discografico, e so che Sting è in tournée o sta per iniziare il tour di Sting. Sì, sarà anche in Italia. Oh, che bella notizia. Ma verrà a fare cose celtiche? Questo non lo so ancora. Aia, va bene. E che cosa farà? Non si suonerà al Pistoia Blues Festival. Ma quindi quest'estate? Sì, cioè tu stai anticipando delle date che ci saranno fra mesi. Sì, conviene portarsi avanti col lavoro. E soprattutto conviene mettere i soldi da parte sì. per andare a vedere la musica. Bravo. Bene, va bene. Bisogna organizzarsi. Bisogna organizzarsi, lo farò anch'io. Quindi al Pistoia Blues Festival arriverà Sting. Il 24 luglio. Basta? Finito? Altre date? Ora questa, ancora non oggi si sanno le altre. Non c'è nient'altro. Allora, stavamo parlando di Steve Jordan, che è un architetto di ritmi, e la prova, una delle cose più belle che ha fatto Steve Jordan, l'ha realizzata molti anni fa, esattamente era l'85, per un album del pianista Don Grolnick intitolato Arts and Numbers. Ce l'hai questo disco? No, mi manca. Ma sei pazzo, dire. Completamente, lo devi scaricare subito da iTunes, perché tu non io ce l'hai il disco originale. Sì, ma non te lo posso dare. Perché? Per il rispetto che ho per Don Grolnick e per autori, discografici, editori e via dicendo. Me lo potevi regalare per Natale. Te lo posso prestare, lo puoi ascoltare e poi me lo riporti. Va bene, dai, facciamo così. Non è che così. Te lo scarichi però. No, non so se crederti, però intanto ti faccio ascoltare Pointing at the Moon, Don Grolnick, 1985, album Arts and Numbers, un capolavoro, lo ripeto, Hiram Balock alla chitarra, un Michael Brecker in grandissima forma con il suo sax tenore, Will Lee al basso elettrico e Steve Jordan, architetto di ritmi, alla batteria. Soundcheck, il suono della musica. Sound unico, tenore e tromba dei Brecker Brothers. Randy e Michael Brecker presenti al soundcheck con On the Backside, quando tornarono discograficamente dopo un po' di anni di pausa, questo nel 1992, con l'album intitolato infatti The Return of Brecker Brothers. Dennis Chambers alla batteria, George Withy alle tastiere, James Genus al basso elettrico, poi Dean Brown alla chitarra o Michael Stern in alcuni brani, Will Lee sempre al basso elettrico, e questi due campioni, Randy e Michael Brecker, presenti al soundcheck con On the Backside. Siamo quasi ai saluti, mio caro Francesco Tromba, abbiamo quasi fatto. Sì, ma abbiamo altri due concerti da annunciare. Ah, e me lo dici adesso? Sì. Vediamo. Allora. Però mi auguro siano in Italia. No, sono a New York. A New York, sempre a New York, va bene. Giovedì 15, dal 15 al 17 in realtà, l'Aaron Goldberg Trio al Jazz Standard, tra cui diciamo ci dovrebbe essere anche Eric Harland alla batteria. Il contrabbasso lo sai chi è? Contrabbasso Ruben Rodgers. Ah, Ruben Rodgers. Ruben Rodgers. Fortissimo, mamma mia. E beh, il trio di Aaron Goldberg. Sì, esatto. Il venerdì 16 e sabato 17 ci sarà Bill Frisell al Rose Theater Jazz at Lincoln Orchestra. Lincoln Center, scusa. Fatto? Sì, questi due. Io non capisco perché non ci trasferiamo a New York. Tanto noi possiamo fare la radio anche da New York, Quando vuoi, per noi possiamo andare, anche se io in realtà non ho soldi per andarci. Non ti preoccupare, intanto prepara lo zainetto, a New York ho un sacco di amici ristoratori, vai lì e fai il tuo lavoro. Al massimo dormiamo a Central Park. Perché lì danno le mance, no? Ah sì. Danno delle belle mance, no? Poi magari vai in un bel locale dove si fa anche musica, conosci gli artisti, e gli fai l'intervista e li intervistiamo per la radio. Prendi la mancia e sei felice e contento. Chiudiamo il soundcheck, mio caro Francesco Tromba, ricordandovi che torniamo sabato prossimo a partire dalle 19:15 e poi l'appuntamento della domenica, e vi lascio con un altro eccellente sassofonista. Quindi oggi una puntata veramente di jazz contemporaneo, con alcune novità e alcuni artisti che stanno facendo la storia del jazz negli ultimi anni. Quindi Joshua Redman, ti piace? Tantissimo. Oh, senti questo brano, Put It In Your Pocket, il brano tratto da Momentum del 2002 per la Elastic Band di Joshua Redman, ovvero Nicholas Payton alla tromba, Samia Hill all'organo, Michelle al basso elettrico e Jeff Ballard oppure Brian Blade, a secondo dei brani, alla batteria. A tutti voi buona serata, anche tu saluti Francesco? Sì, buona serata a tutti. Ecco, buona serata a tutti, buona serata e buona settimana, buon lavoro e buona musica da Gigi Telespi.